ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. Molte persone sono troppo ristrette, troppo chiuse nelle loro idee, così educando i figli li legano a loro volta. Da noi era proprio il contrario. Mi sembra che i miei genitori siano stati sempre più sopraffatti dall'infinita complicazione di questa vita e che non siano mai stati in grado di fare una scelta. Hanno lasciato troppa libertà di movimento ai loro figli. Non potevano offrirci nessun punto d'appoggio, dato che non ne avevano mai trovato uno per sé. E non potevano contribuire alla nostra formazione perché non si erano mai trovati una forma. Capisco sempre meglio il nostro compito. È quello di permettere ai loro poveri talenti, dispersi senza forma e riposo, di crescere, di maturare e di trovare la loro forma in noi, per reazione alla loro mancanza di forma, assenza di vera generosità, disordine e insicurezza, cattiva amministrazione per così dire, e forse talvolta, anche se non ultimamente, aspirazione spasmodica verso unità, inquadramento, sistema. Ma l'unica vera unità è quella che contiene tutte le contraddizioni e i momenti irrazionali, altrimenti finisce per essere di nuovo un legame spasmodico che fa violenza alla vita. 31 dicembre 1941, martedì mattina, le 10. A Deventer mi svegliavo con questo stato d'animo. Mi sentivo così bene, con gli angoli e i lati tutti al loro posto, nella mattina gelata. Ancora due parole, più che altro per il piacere di essere ospite di me stessa presso questa lampada fedele. Alcune cose terra a terra. M'accorgo che alzarmi presto mi fa un gran bene e trovo sempre che l'acqua fredda è una cosa quasi eroica. Sono fondamentalmente una persona molto sana. La cosa principale è l'equilibrio spirituale, il resto funziona allora da sé. La colazione rallegrata da una coscia di pollo. Cara Maminka, che traduce tutto il suo amore in cosce di pollo e uova sode. Il treno per Deventer. Quando vedo tanti visi intorno a me, voglio scrivere un romanzo. Abelardo e Eloisa. Il paesaggio ampio, quieto e anche un po' triste. Guardavo fuori dalla finestra ed era come se viaggiassi attraverso il paesaggio della mia anima. Paesaggio dell'anima. Spesso il paesaggio esterno è per me lo specchio di quello interno. Giovedì pomeriggio, un pochino lungo l'Eisel. Paesaggio ampio, sereno e pieno di luce. Anche lì la sensazione di camminare per la mia anima. Che modo stomachevole di dire le cose, sta zitta. La mamma. Di colpo quell'ondata di amore e di compassione che cancellava tutte le piccole irritazioni. 5 minuti dopo ero naturalmente irritata di nuovo. Ma più tardi, quel giorno o quella sera, mi è venuto di pensare: forse, quando sarai molto vecchia, io passerò un po' di tempo con te. Ti spiegherò cosa hai dentro e ti libererò dalla tua irrequietezza, perché pian piano comincio a capire come sei combinata. La mamma, che a un certo punto diceva: «Sì, in fondo sono religiosa». Tante Pitt aveva usato quasi le stesse parole qualche giorno fa. Era davanti al camino. «In fondo sono religiosa». È quell'infondo che conta nel suo atteggiamento. Le persone si abituano a ometterlo, a non avere il coraggio di dir di sì ai loro sentimenti più profondi. Che voleva dire con «in fondo»? Sono riconoscente. Non so dire ancora quanto, perché lo posso conoscere nella fase migliore della sua vita. Riconoscente non è la parola. Le 8 di sera. Lo specialista dei polmoni lo ha più o meno deriso per il suo gran torace. A ogni domanda, se avesse tosse o catarro o Dio sa cosa, esse rispondeva invariabilmente: purtroppo non posso servirla. E la prima cosa che ha detto tornando nella sala d'aspetto era: devo partire subito per Davos. Ho protestato dicendo che in quel caso tutto l'harem sarebbe partito con lui. Certamente, la Svizzera mi ringrazierà. Per strada dovevo prenderlo in giro in continuazione. E lui, minacciandomi, aspetta fino a venerdì, quando ci saranno le radiografie. Con gran fatica siamo riusciti a comperare 3 limoni da un carretto, pagandoli 10 centesimi ciascuno invece che 7. E avevamo tanta voglia di pasticcini con la panna montata. Così ce ne siamo andati di nuovo in giro per le strade come una bizzarra coppia di innamorati, io appesa al suo braccio in un atteggiamento un po' voluto e col cappello da cosacco di traverso sulla testa, lui col suo berretto d'alpino posato sopra quell'antico paesaggio grigio. Ora sono quasi 8:30 di sera, l'ultima sera di un anno che è stato per me il più ricco e fruttuoso e insieme il più felice di tutti. E se dovessi spiegare in una parola perché quest'anno è stato così buono, a partire dal 3 febbraio, quando avevo suonato timidamente al 27 della Corbettstraat e un tipo da far paura mi aveva esaminato le mani tenendo un'antenna sulla testa, allora dovrei dire: per la mia grande presa di coscienza, il che significa anche poter disporre delle mie forze più profonde. E pensare che una volta appartenevo anch'io a quella categoria di persone che di tanto in tanto pensano di se stesse: sì, in fondo io sono una persona religiosa o qualcos'altro di positivo. E ora mi capita di dovermi inginocchiare di colpo davanti al mio letto, persino in una fredda notte d'inverno, ascoltarsi dentro, non lasciarsi più guidare da quello che si avvicina da fuori, ma da quello che si innalza dentro. È solo un inizio, me ne rendo conto, ma non è più un inizio vacillante, ha già delle basi. Ora sono 8:30, c'è un camino a gas acceso, tulipani gialli e rossi, ed ecco che spunta fuori una pasticca di cioccolato della zia Hess. Ci sono anche 3 pigne che vengono dalla brughiera di Larenne, accanto alla ragazza marocchina e a Pushkin. Mi sento così normale e così bene, senza quei pensieri terribilmente profondi e tormentosi e quei sentimenti pesanti. Proprio normalissima, però piena di vita e molto profonda, una profondità che sento pure come normale. Devo ancora ricordare l'insalata di salmone che è pronta per stasera. E ora metto sull'acqua per il tè. La zia Hess sta facendo un golfino all'uncinetto e Pa Han si trastulla con una macchina fotografica. E perché no, poi? Che sia tra questi 4 muri o tra altri 4, che importa? Tanto quel che conta è altrove. E stasera spero anche di andare un po' avanti con Jung. ...7 gennaio 1942, mercoledì sera, 8:00. Oggi pomeriggio, lungo il canale bianco di neve, dopo quella scena inaspettata al consiglio ebraico, sono molto meno sicuro della mia assoluta bravura che dell'insieme delle mie qualità umane. E più tardi, ognuno attaccato a un cordone del tram numero 24. Era un bene che lei ci fosse. Lei mi stimola sempre perché partecipa a tutto e io sono un tipo che ha proprio bisogno di un podio. In un modo o nell'altro, io pretendo di dire sempre qualcosa che sia molto spiritoso, acuto e speciale, o altrimenti di non dire assolutamente nulla. E così finisco per non annotare mai tanti piccoli incidenti comici perché ho paura di essere insulsa di fronte a me stessa. Adesso però voglio provare ad annotare l'episodio di oggi pomeriggio. Solo i fatti puri e semplici, anche se proprio i semplici fatti non esistono mai con esse, perché l'atmosfera che emana da lui finisce sempre per influenzare le situazioni. Dunque, dovevamo trovarci 4:30 al consiglio ebraico. Eravamo ben poco entusiasti al pensiero di interrogazioni e domande riguardanti la proprietà, numero di emigrazione, Gestapo e altre amenità simili. Un giovane dietro un tavolino, viso sensibile, dolce, intelligente. La segretaria russa saltella senza troppa eleganza dietro a esse, come se la sua presenza fosse necessaria, apparentemente per quel suo orecchio, in realtà solo per poterci essere anche lei. E anche questa volta ne valeva la pena. Dopo 4 chiacchiere tra esse, quest'individuo dolce e veramente molto simpatico, spunta fuori un omino che tutto entusiasta si avvicina a esse. «Buongiorno, signor esse!» Esse guarda questo tipo, che aveva una meravigliosa testa sarcastica da Mefistofele su un corpo piccolino, non lo riconosce e gli dice, sperando in bene, «Ah, lei deve essere stato mio allievo!» Questo succede in tutta Europa, immagino. Se io cammino per la strada con esse, ogni tanti metri c'è qualcuno che gli viene incontro con la mano tesa e esse prontamente. Oh, lei deve essere stato mio paziente. Quest'uomo, la cui faccia diabolica, dai tratti marcati e sarcastici, contrastava singolarmente con quella sensibile e dolce del giovane, non aveva frequentato un corso di esse, ma lo conosceva attraverso Inete e aveva gran voglia di essere suo paziente. Il tipo mordace dice a quello mite: «Sta attento al signor esse, quello sa tutto di te, dalle tue mani». E il giovane mite posa immediatamente sul tavolo la sua mano destra, aperta. Esse, che ha un po' di tempo, acconsente. È difficile descrivere il seguito, anche perché quando esse dice «questo è un tavolo» e un altro dice «questo è un tavolo», i due tavoli risultano molto diversi. Le cose che dice lui, anche le più semplici, sembrano più impressionanti, significative, vorrei dire quasi più cariche, che se le dicesse un altro, e non perché esse si dia un'aria di importanza, ma perché le cose in lui sgorgano da sorgenti più profonde, più vive e anche più profondamente umane. E nel suo lavoro esse cerca l'elemento umano e non quello sensazionale, anche se finisce sempre per svegliare delle sensazioni, proprio perché scandaglia l'uomo in profondità. Dunque, il piccolo ufficio spoglio del Consiglio ebraico. Il giovane sensibile che teneva le mani sollevate, il Mefisto tutto attento, e esse che dopo un paio di osservazioni riusciva a creare un contatto umano molto forte col primo. E nota bene che eravamo venuti per essere interrogati sulle nostre proprietà. Non ricordo esattamente tutte le osservazioni di esse, ma una era questa. Lei fa bene il suo lavoro, però va contro la sua vera natura. È di sfuggita. Tanto introverso. No, è troppo difficile da rendere. Da brava allieva collaboravo valorosamente, osservando, tra l'altro, anche qualcosa di femminile e di sensibile. E venivano fuori capacità che non potevano manifestarsi per sfiducia in se stesso. E anche, quando lei si è messo davanti a una cosa da fare, la farà bene, ma se avesse da scegliere tra cose diverse sarà insicuro. Eccetera, eccetera. In pochi minuti il giovane era, per così dire, messo a terra, tutto sconcertato. Ma signoresse, quel che lei mi dice in 2 minuti corrisponde esattamente al risultato di un test che avevo fatto. Dopodiché ha preso un appuntamento con esse e gli ha dato 1000 consigli per compilare quei moduli. Mi accorgo che non sono affatto tagliata per rendere il lato umoristico di quella situazione inaspettata. Più tardi, sul canale bianco di neve, ce la ridevamo come 2 scolaretti chiassosi, ripensando allo strano esito di quel caso burocratico. Un appuntamento per un consulto e un impiegato che per un improvviso moto di simpatia vorrebbe violare la legge in tuo favore, se gli fosse possibile. Gennaio, le 11:30 di sera. Sono contenta che domattina mi aspettino tutti quei piatti da lavare nella cucina in disordine. È una specie di penitenza. Credo di poter capire i monaci che nelle loro ruvide vesti si inginocchiano su freddi pavimenti di pietra. Bisogna che rifletta seriamente su queste cose. Stasera sono proprio un po' triste. Ma sono stata io a volere quegli abbracci. Lui, quel tesoro, si era appena proposto di vivere in castità per parecchie settimane, pensando alla Gestapo, dove dovrà presentarsi tra non molto, quasi per poter irradiare nient'altro che bontà e purezza, per attirare su di sé i buoni spiriti del cosmo. Perché poi uno non dovrebbe crederci? Ed ecco che una sfrenata ragazza kirghisa viene a confondergli quei sogni. Gli ho chiesto se stasera, ripensandoci dal suo letto, ne avrebbe provato dispiacere. No, ha risposto, io non rimpiango mai nulla. Era bello. E mi sono reso conto che esiste ancora un luogo terrestre dentro di me. Invece, per me, un improvviso riavvicinamento fisico nasce sempre da una vicinanza spirituale ed è buono proprio per questo. E che cosa ne cavo, poi? Soltanto tristezza e la coscienza che con gli abbracci non riesco a esprimere quel che provo per un altro. E la sensazione che un uomo mi sfugge proprio quando è fra le mie braccia. Io provo più piacere e desiderio nel guardare la sua bocca che nel sentirla sulla mia. In rarissimi momenti questo mi procura persino una sorta di felicità, per dirla con un parolone. E stanotte mi addormenterò accanto a Anna, per pura tristezza. Com'è tutto caotico. Ora lo so, esse prega dopo essersi tolto i denti. Del resto è logico, si deve prima aver chiuso i conti con tutte le faccende terrene. Pare che io sia in un periodo di grande fioritura. Irradio luce in tutte le direzioni, dice esse, lui ne gode insieme con me. Un anno fa ero proprio una moribonda, con le mie sieste di 2 ore, il mio mezzo chilo di aspirine al mese. Era una situazione da far paura. Ormai è letteratura antica. Mi sembrano così lontani i problemi che avevo allora. Ho dovuto percorrere un cammino faticoso per ritrovare quel gesto intimo verso Dio, la sera, alla finestra, per poter dire «Ti ringrazio, Signore». Nel mio mondo interiore regnano tranquillità e pace. È stato proprio un cammino faticoso. Ora sembra tutto così semplice, così ovvio. Questa frase mi ha perseguitata per settimane. Bisogna osar dire che si crede, osar pronunciare il nome di Dio. In questo momento, un po' fiacca e stanca e triste, non del tutto contenta di me stessa, non sento così, ma so che questo sentimento esiste. Stasera non dirò certo niente a Dio, anche se sento il desiderio di quelle pietre fredde, di riflettere, di prendere le cose sul serio. Le cose del corpo. Il mio temperamento va ancora troppo per la sua strada. Non è in armonia con l'anima. Credo però di possedere questo desiderio di armonia, anche se dubito sempre più che lo stesso uomo possa andarmi bene, corpo e anima. Certo però che la mia tristezza è diversa da quella di un tempo. Non cado più così in basso. E nella mia tristezza è già insita una possibilità di ripresa. Una volta, quando ero triste, pensavo che avrei continuato a esserlo per tutta la vita. Ora so che anche quei momenti fanno parte del mio ritmo vitale e che è un bene che sia così. Ho di nuovo fiducia, una grandissima fiducia, anche in me stessa. Credo nella serietà del mio impegno. E so che col tempo riuscirò a amministrare bene la mia vita. Certe volte, quando sono sola, penso a lui con un amore tanto profondo e riconoscente. Mi sei così vicino che vorrei dividere le tue notti con te. Questi sono per me i momenti forti della mia relazione con lui. Può darsi benissimo che una notte simile si rivelerebbe un disastro. C'è qualcosa che non va? E ora buonanotte, perché mi accorgo che sto dicendo delle grandi sciocchezze dal sonno che ho. Ah, quei piatti da lavare domattina. Però il suo corpo non lo voglio proprio, anche se certe volte sono pazzamente innamorata di lui. Dipende dal fatto che gli voglio bene in modo così profondo, quasi cosmico, un modo che col corpo non si riesce neppure a esprimere. Tide e io siamo le due persone più vicine a esse e siamo due opposti. Dobbiamo volerci molto bene anche noi. Oggi pomeriggio, quando lei ci ha accompagnati alla porta e ha dato un bacio a tutte e due, c'era per un momento una meravigliosa intimità fra noi tre. E ora? Andrai finalmente a letto? Febbraio 1942, giovedì pomeriggio, le due. Se dovessi dire che cosa mi ha fatto più impressione oggi, direi che sono state le grosse mani piene di geloni di Jan Bull. Di nuovo qualcuno è stato torturato a morte, quel dolce ragazzo della libreria Cultura. Ricordo che suonava il mandolino. Aveva una ragazza simpatica, che era poi diventata sua moglie, e c'era anche un bambino. «Quelle bestie», diceva Jan Bull nel corridoio affollato dell'università, «lo hanno fatto a pezzi». E Jan Roman e Till Roy e diversi altri tra i professori più vecchi e più fragili. Ora sono prigionieri in una baracca piena di correnti, in quello stesso parco di Feilue, dove in una pensione accogliente avevano trascorso le loro vacanze estive. Non hanno neppure il permesso di indossare il pigiama. Non possono avere nulla con sé, raccontava Aleida Schott nel buffet. Vogliono abbruttirli completamente, vogliono fargli venire un sentimento di inferiorità. Moralmente sono forti abbastanza i nostri uomini, ma la salute dei più è davvero molto fragile. Poss si trova in un convento a Haren e scrive un libro, così vien detto. C'era un grande sconforto stamattina a lezione. Ma una luce c'era, una breve, inaspettata conversazione con Jan Bull mentre attraversavamo il freddo e stretto Langabrusteg e poi aspettando il tram. Jan chiedeva con amarezza: «Cosa spinge l'uomo a distruggere gli altri?» E io: «Gli uomini, dici, ma ricordati che sei un uomo anche tu». E inaspettatamente quel testardo, brusco Jan era pronto a darmi ragione. «Il marciume che c'è negli altri c'è anche in noi», continuavo a predicare. «E non vedo nessun'altra soluzione, veramente non ne vedo nessun'altra che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappar via il nostro marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi. È l'unica lezione di questa guerra. Dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove». E Jan era pronto a essere d'accordo con me, aperto e perplesso e non più attaccato alle durissime teorie sociali di un tempo. Diceva: «Sono anche così a buon prezzo i sentimenti vendicativi rivolti verso l'esterno. Vivere solo in funzione di quell'unico momento di vendetta, questo non ci interessa proprio». Stavamo lì, al freddo, ad aspettare il tram. Jan con le sue grandi mani viola per i geloni e col mal di denti. E non erano teorie. I nostri professori sono imprigionati. Un altro amico di Jan è stato ammazzato. Ma c'è ancora dell'altro, troppo, per farne un elenco. E noi ci dicevamo: «Sono così a buon prezzo quei sentimenti di vendetta». Era proprio una luce oggi. E ora un po' a dormire e poi a far conoscenza con quell'amica di Rilke. Tutto va sempre avanti, e perché no? Dovrei scrivere un po' più spesso su queste righine blu, ma c'è troppo poco tempo. 25 febbraio, mercoledì. Sono 7:30 di mattina. Mi sono tagliata le unghie dei piedi, ho bevuto un bicchiere di vero cacao Van Houten e mangiato una fetta di pane imburrato con miele, il tutto con quel che si dice abbandono. Ho aperto a casaccio la Bibbia, ma stamattina non dava risposta. Non importa molto del resto, non c'erano vere domande da fare. C'è solo una gran fiducia e riconoscenza che la vita sia tanto bella, e perciò questo è un momento storico. Non perché tra poco io devo andare con esse alla Gestapo, ma perché trovo ugualmente bella la vita. 27 febbraio, venerdì mattina, le 10. Mi sembra presuntuoso affermare che un uomo possa determinare il proprio destino dall'interno. Quel che invece un uomo ha in mano è il proprio orientamento interiore verso il destino. I fatti esterni non bastano per capire la vita di una persona. Bisogna conoscerne i sogni, il rapporto con la famiglia, gli stati d'animo, le delusioni, la malattia e la morte. Mercoledì mattina presto, quando con un gruppo numeroso ci siamo trovati in quel locale della Gestapo, i fatti delle nostre vite erano tutti uguali. Eravamo tutti nello stesso ambiente, gli uomini dietro la scrivania come quelli che venivano interrogati. Ciò che qualificava la vita di ciascuno era l'atteggiamento interiore verso quei fatti. Si notava subito un giovane che camminava su e giù con un'espressione palesemente scontenta, assillato e tormentato. Cercava in continuazione pretesti per urlare a quei disgraziati ebrei: mani fuori dalle tasche, per favore, eccetera, eccetera. Per me era da compiangere più di coloro a cui stava urlando. E questi, a loro volta, facevano pena nella misura in cui erano impauriti. Quando mi sono presentata davanti alla scrivania, mi ha urlato improvvisamente: che ci trova di ridicolo? Avrei risposto volentieri: niente, tranne lei. Ma per diplomazia mi è parso meglio lasciar stare. Lei ride tutto il tempo, continuava a urlare lui, e io, in tutta innocenza: non me ne accorgo proprio, è la mia faccia normale. E lui: per favore non dica scemenze, vada fuori! Con una faccia che voleva dire: tra poco mi sentirai. Credo che questo fosse il momento psicologico in cui avrei dovuto spaventarmi a morte, ma quel trucco l'ho capito troppo in fretta. In fondo, io non ho paura, non per una forma di temerarietà, ma perché sono cosciente del fatto che ho sempre a che fare con degli esseri umani e che cercherò di capire ogni espressione di chiunque sia e fin dove mi sarà possibile. E il fatto storico di quella mattina non era che un infelice ragazzo della Gestapo si mettesse a urlare contro di me, ma che francamente io non ne provassi sdegno, anzi che mi facesse pena, tanto che avrei voluto chiedergli: hai avuto una giovinezza così triste o sei stato tradito dalla tua ragazza? Aveva un'aria così tormentata e assillata, del resto anche molto sgradevole e molle. Avrei voluto cominciare subito a curarlo, ben sapendo che questi ragazzi sono da compiangere fin tanto che non sono in grado di fare del male, ma che diventano pericolosissimi se sono lasciati liberi di avventarsi sull'umanità. È solo il sistema che usa questo tipo di persone a essere criminale. E quando si parla di sterminare, allora che sia il male nell'uomo, non l'uomo stesso. Un'altra cosa ancora dopo quella mattina: la mia consapevolezza di non essere capace di odiare gli uomini malgrado il dolore e l'ingiustizia che ci sono al mondo, la coscienza che tutti questi orrori non sono come un pericolo misterioso e lontano al di fuori di noi, ma che si trovano vicinissimi e nascono dentro di noi, e perciò sono molto più familiari e assai meno terrificanti. E quel che fa paura è il fatto che certi sistemi possano crescere al punto da superare gli uomini e da tenerli stretti in una morsa diabolica, gli autori come le vittime. Così grandi edifici e torri, costruiti dagli uomini con le loro mani, si innalzano sopra di noi, ci dominano e possono crollarci addosso e seppellirci.